E quindi, dopo aver ascoltato la testimonianza della carovana del 25 novembre dal Kurdistan, continuiamo a parlarne ancora, questa volta con un'altra compagna che ci racconta la presentazione di un libro. Ciao, ciao. Un saluto a chi sta ascoltando la radio, alle compagne, ai compagni. Allora, sì, due iniziative vi volevo segnalare. Una che ci sarà il prossimo lunedì 26 gennaio, in cui alla libreria Tuba, che si trova al Pigneto, via del Pigneto 39A, presenteremo questo libro che è stato edito dalla Wiki Onlus, l'associazione insomma dei curdi e delle curde, e di Sakine Kansiz. Sakine ne abbiamo parlato insomma diverse volte anche da questi microfoni, è una militante femminista, una delle fondatrici del PKK, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che è stata uccisa 2 anni fa, il 9 gennaio di 2 anni fa, a Parigi, insieme a Fidan Dogan e a Leyla Soylemez. E tutte e tre, insomma, donne che stavano lavorando, militanti femministe che lavoravano insomma tantissimo contro per la liberazione delle donne e anche insomma la lotta per la liberazione del popolo. Della popolazione del Kurdistan, appunto, sono state ammazzate 2 anni fa risposte non ce ne lei, sono ancora, insomma. Sì, di quello vabbè, di lei, insomma, di Sakine, denominata insomma Sara, chiamata Sara, che ha scritto tantissimo, come tanti insomma rappresentanti poi del PKK, il Wiki ha deciso di pubblicare questo primo volume, un tomo dei suoi scritti. Il libro ha un titolo anche bellissimo, Tutta la mia vita è stata una lotta, per cui verrà proprio da Tuba la rappresentante di Wiki Onlus, Özlem Tanrıkulu, e presenterà questo libro. E anche sono stati pubblicati gli atti del convegno che ci fu ad ottobre alla Casa Internazionale delle Donne, proprio con tantissime donne curde e non solo. Un convegno insomma che la radio ha anche mandato, che voi avete mandato per diverso tempo. Di questo convegno saranno stati appunto fatti degli atti, che verranno presentati sempre lunedì 26, lo ricordo, lunedì 26 gennaio alle 18 a libreria Tuba, via del Pigneto 39A, mentre domenica 8 febbraio, quindi insomma la settimana prossima, oltre a questo libro verrà presentata Le cagne sciolte, quindi ad Ostiense, il video dell'audio che avete ascoltato. Oltre insomma diciamo così agli audio che sono stati fatti, giustamente, che martedì ha mandato, sono state fatte anche delle riprese per alcune interviste che abbiamo fatto ad alcune donne, e in particolare questo sul Campo Newroz, appunto, è stato fatto un video, e sia per quanto riguarda la compagna che ha parlato Pelda che per la donna Ezidi che ha portato avanti la sua testimonianza, e quindi insomma si vedrà anche proprio come è gestito e come è stato allestito questo campo profughi per gli Ezidi. Il ricavato di quell'iniziativa andrà proprio a sostegno di questo campo Newroz. Per cui insomma continuiamo e si continuerà a parlare anche di Kurdistan, ma soprattutto di donne, della lotta delle donne, che è molto importante per la liberazione delle donne curde, ma per la liberazione delle donne di tutto il mondo, come loro dicono, sì, soprattutto di quelle del mondo arabo, per la lotta al patriarcato. In queste due giornate, appunto 26 gennaio ore 18 alla libreria Tuba, via del Pigneto 39A, e l'8 febbraio domenica alle cagne sciolte a via Ostiense. Perfetto, noi ti ringraziamo, comunque insomma lo ricorderemo anche martedì prossimo, anche durante la settimana all'interno dei microfoni di Onda Rossa, e quindi lunedì da Tuba e poi l'8 febbraio alle cagne sciolte. Grazie a voi. Grazie, ciao bella. Ciao.